Ti sei mai chiesto perché fa sorridere ciò che viene riproposto in miniatura? Tutto ciò che è diverso fa paura, tranne nei casi in cui è palesemente innocuo. In quei casi la paura viene acquietata in un attimo tramite quella che chiamiamo risata. In così poco che ne rimuoviamo il millesimo di secondo non piacevole. O forse più semplicemente l'istinto materno verso il figlio debole, considerando che l'esclamazione "che dolce" spesso dagli uomini non viene compresa o apprezzata. Cazzata, anche gli uomini danno ragione alla mia prima ipotesi tramite la loro risata. Ipotesi che spiega gli archetipi millenari celati in ogni "che tesoro piccolino". Prima della psicanalisi regnava un'idealizzazione angelica del bambino, ma oggi chi voleva guadagnarci l'ha capito per primo, visto la quantità di oggetti rimpiccioliti con forme delicate in vendita su avanti, ridotti tutto un complesso di inferiorità sulle presunte dimensioni del mio membro solo per non sentirti membro della società che si membro.